Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Ancora qualche giorno e poi le urne, inesorabili, daranno il loro responso. Gli italiani attraverso il voto esprimeranno la loro volontà, seppur c'è da dire una volontà un po' soffocata dai lacci dell'attuale legge elettorale. Gli italiani voteranno per simpatia o per antipatia? Voteranno per affinità ideologica verso un partito, verso una coalizione? Voteranno qualcuno a caso, come ha confessato di fare candidamente qualche mio amico? O voteranno un partito o una coalizione perché sarà stata loro consigliata da un amico, da un conoscente, da una persona per cui si fidano? Molti però voteranno per le istanze, le proposte, le promesse che i partiti, le coalizioni avranno fatto. Al di là delle polemiche, delle accuse, degli scherni, delle prese in giro, è sulle proposte, sulle promesse che i partiti stanno facendo che si gioca la campagna elettorale. Dai temi del lavoro a quelli della scuola, dai temi legati alla pensione a quelli delle tasse, tra promesse oggettivamente poco credibili e misure decisamente più realizzabili, anche questa campagna elettorale ci ha consegnato diverse visioni dell'Italia che verrà. Ma alcuni argomenti sono nettamente più delicati e parliamo dei temi etici. Adozioni per le coppie dello stesso sesso, aborto, ricerca sulle cellule staminali embrionali, fecondazione assistita, temi che guidano in un senso o nell'altro le diverse pedine sullo scacchiere politico, moltissime visioni e moltissime sfumature, tra quelli che in America definirebbero liberals, liberali, agli esponenti cattolici dei diversi schieramenti, a quelli che di questi temi non vogliono nemmeno sentir parlare. Di temi etici si parlò, però, e tantissimo si parlò, nella primavera del 2005 con i referendum abrogativi della legge 40, una consultazione che vide la vittoria dell'astensione, un'astensione che ha impedito che la legge venisse toccata, visto che molti non si recarono alle urne proprio per far fallire boicottando questo referendum. Ma anche oggi questi temi sono tornati a pesare. Certamente non peseranno come negli Stati Uniti, dove alcuni esponenti religiosi hanno bollato come peccato mortale un voto per Obama, che, come si sa, sui temi etici si può considerare molto dalla parte dei liberals. Ma torniamo a noi. Un elettore cattolico come si deve comportare? E la Chiesa, quando interviene, anche con decisione su questi argomenti, commette un atto di ingerenza? E un elettore cattolico che condividesse con alcuni partiti la stessa visione sui temi etici, ma non concordasse in nulla con tutto il resto, come dovrebbe comportarsi nel segreto della cabina elettorale, dove, come coniò in un fortunato slogan il buon Giovannino Guareschi, Dio ti vede e Stalin no? Dalla Caritas in Veritate di Papa Benedetto XVI. Campo primario e cruciale della lotta culturale tra l'assolutismo della tecnicità e la responsabilità morale dell'uomo è oggi quello della bioetica, in cui si gioca radicalmente la possibilità stessa di uno sviluppo umano integrale. Si tratta di un ambito delicatissimo e decisivo in cui emerge con drammatica forza la questione fondamentale: se l'uomo si sia prodotto da se stesso o se egli dipenda da Dio. Le scoperte scientifiche in questo campo e le possibilità di intervento tecnico sembrano talmente avanzate da imporre la scelta tra le due razionalità, quella della ragione aperta alla trascendenza o quella della ragione chiusa nell'immanenza. Si è di fronte ad un out-out decisivo. La razionalità del fare tecnico centrato su se stesso si dimostra però irrazionale perché comporta un rifiuto deciso del senso e del valore. Non a caso la chiusura alla trascendenza si scontra con la difficoltà a pensare come dal nulla sia scaturito l'essere e come dal caso sia nata l'intelligenza. Di fronte a questi drammatici problemi, ragione e fede si aiutano a vicenda. Solo assieme salveranno l'uomo. È con noi in collegamento telefonico Don Cristiano Arduini, bioeticista, insegnante di bioetica e responsabile della pastorale familiare della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Cristiano. Sì, buongiorno a tutti. Intanto mettiamo i puntini sulle i e cerchiamo di capirci anche dal punto di vista delle parole che utilizziamo. Diamo una definizione di valore irrinunciabile e di tema eticamente sensibile. Beh, innanzitutto vorrei dire valore irrinunciabile sta ad indicare ciò che è fondamento del vivere familiare e sociale, ciò che è pietra miliare, vorrei dire una milestone di quella che è l'esistenza umana. E quando si parla di temi eticamente sensibili si fa riferimento alla custodia, promozione della vita fin dal suo concepimento, il sostegno della famiglia come esperienza originaria e poi la libertà di scegliere un indirizzo educativo per i propri figli, naturalmente. Mi ricordo il 2005, quelle settimane precedenti al referendum che vide in questo caso una vittoria dell'astensione sulla legge 40. Mi ricordo un clima in cui si tacciava la Chiesa di ingerenza, la Chiesa aveva comunque attraverso la Fondazione Scienza e Vita invitato all'astensione. Mi ricordo scene di critiche aperte, di persone che arrivavano con il registratore sotto l'ambone delle prediche del parroco per poi denunciarlo alle autorità. C'è stata sempre un po' di confusione attorno a questi temi, ma la Chiesa può o la Chiesa deve intervenire su questi temi cosiddetti sensibili, e perché deve farlo, se deve farlo? Ma anzitutto direi che la Chiesa è autorizzata in quanto portatrice di un messaggio fecondo per il bene dell'uomo, di ogni uomo, di ogni donna, e appunto dicevo prima della famiglia. Ciò che sta a cuore alla Chiesa è l'umano, in quella che è la sua accezione più bella, no? Di relazione, di condivisione dei beni, di fiducia, di, potremmo dire anche di dono, nel senso di un dono agito tra tutti i componenti della famiglia. È chiaro che la Chiesa lo fa a partire da ciò che è una rivelazione, un messaggio evangelico che mette al centro l'uomo sempre e comunque in quanto dono consegnato a se stesso, cioè l'uomo non è legato solo esclusivamente alla propria libertà che poi può diventare arbitrio, dispotismo, ma riconosce di avere un'origine, una radice, l'amore originario, l'amore di Dio, e un compimento che avviene sempre nella consegna a quello che è il suo creatore. E a tal titolo, ecco, quando sono minate le radici del vivere, come anche le radici del morire, la Chiesa si sente assolutamente chiamata in gioco. Insomma, non tanto una possibilità, ma un dovere? Sì, assolutamente sì, direi, proprio perché sta a cuore la vita di, in particolare, di chi è debole, di chi è fragile, di chi fa fatica a coniugare libertà e bene. Ecco, la libertà da sola, oggi si discute molto di libertà, no? Libertà da sola è incapace di rendere la ragione del nostro vivere. Ecco l'importanza di coniugare, ripeto ancora, libertà e bene. Ci fermiamo qualche istante, Don Cristiano, torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Senti, manifesti i tuoi sentimenti. bella del mondo. Una vertigine, combinazione di cellule, dove uno sbaglio non c'è. Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti, parliamone. Siamo in collegamento telefonico con Don Cristiano Arduini, bioeticista e responsabile della pastorale sociale della diocesi di Padova. Grazie per essere con noi, Don Cristiano. Sì, volentieri. In alcuni paesi, stiamo parlando di temi etici e temi eticamente sensibili, in alcuni paesi come gli Stati Uniti, questioni come i temi etici sono una pregiudiziale assai più marcata nella selezione dei partiti e dei candidati da sostenere all'interno dell'agone politico. Perché, per esempio, in America il voto ad Obama da parte di un cristiano praticante è forse più in discussione che in Italia per coalizioni che magari hanno nei temi etici idee diverse da quelle proposte dalla Chiesa Cattolica? Ma io direi che anzitutto ci sono due ordini di motivazioni. Uno è un ordine storico, cioè gli statunitensi, si sa, vivono di profonde convinzioni religiose, pertanto avvertono molto il senso di appartenenza alla loro comunità ecclesiale, quindi quando vanno a offrire il proprio voto, il proprio consenso, si guardano bene, insomma, a chi darlo. La seconda è forse una ragione politica, nel senso che i partiti fondamentalmente sono due, no? Democratici e repubblicani, anche questi fortemente caratterizzati nelle scelte etiche, nelle scelte a favore della vita o della sperimentazione. Adesso è in voga la sperimentazione sulle cellule staminali, no? Quindi quanti fondi pubblici riservare a questo tipo di processi di carattere biotecnologico. E chiaramente è molto più facile riconoscere chi è a difesa, chi promuove certi valori, chi invece li attenta o vive alcuni atteggiamenti, chiamiamoli così, borderline. Ecco. In Italia è un po' tutto più sfumato, insomma. Sì, direi sostanzialmente in Italia abbiamo tante coalizioni, abbiamo differenti partiti, differenti sensibilità. Per usare un'immagine evangelica, il grano cresce assieme a tante altre colture, c'è anche dell'erba, insomma, della zizzania a volte, e crescono ovunque, insomma, anche dentro ogni uomo per certi versi. Certo. Pensiamo a temi anche molto duri come l'aborto. Da una parte la legge che lo regolamenta lo permette, lo nega a seconda dei casi, dall'altra però ci sono anche le condizioni economico, sociali e culturali che possono portare una persona a compiere drammaticamente molto spesso questa scelta. Spesso però nei dibattiti c'è come la percezione che si pensi più alla prima parte, ovvero alla legge che possa permettere o non permettere, piuttosto che a creare le condizioni per favorire la vita ed evitare magari questi comportamenti. Questo magari se ne parla poco in campagna elettorale o quando questi temi vengono presi. Lei cosa ne pensa? Ma sono convinto anch'io, l'osservazione è pertinente, nel senso che non basta essere a favore o contro la 194. Giustamente sa da tenere in stretta considerazione la culla, vorrei dire la società che rende possibile una simpatia, ecco, per ogni bambino che viene al mondo, e poi lo aiuta effettivamente attraverso proprio quello che è l'aspetto della cura, dell'attenzione, delle case famiglia, degli asili nido, ma vorrei dire ancora di più una società che si prende a cuore l'educazione degli affetti, no? Io ricordo, ecco, qualche tempo fa in un liceo di Roma andò forte lo slogan Yes we can, yes we condom. Il tutto dell'educazione degli affetti è stata ridotta sì al preservativo, no alla leggerezza dei rapporti sessuali. Dico, c'è tutta una cura, un'attenzione, una relazione, una capacità relazionale che va curata in esperienze significative, in esperienze di gruppo, anche attraverso alcuni strumenti, se vogliamo, strettamente sessuali, ma anzitutto c'è la cura delle relazioni che va coltivata. In un clima così, non ho paura a dire che la 194 forse andrebbe riscritta e potenziata anche grazie a risorse e a fondi pubblici. Sarò provocatorio, si commette peccato a votare dei partiti che all'interno di un vasto programma elettorale promettono di compiere scelte ampiamente in contrasto con la dottrina della Chiesa? Nella misura in cui sono convinto che si tratta di qualcosa di contrario, vorrei dire più che peccato è una grave mancanza, ecco, il peccato ha un aspetto soggettivo che io non posso qualificare in anticipo, no? Io credo che se c'è un peccato, il peccato è da rilevarsi laddove si va a votare magari con leggerezza, senza essersi informati sui programmi, su quelli che sono i principi di fondo che ispirano i vari partiti. Però può il cristiano derogare su alcuni temi? Non la penso così, però su altri media, cioè cerca di trovare una posizione un po' meno intransigente? Io ho notato come anche in questo agone politico di oggi su alcuni temi si è molto uniti, su altri, per esempio, gli stessi leader di partito hanno detto noi lasciamo libertà di coscienza, al che può significare che io in anticipo, in quanto elettore, non posso sapere se tutti i membri di quella coalizione poi di fatto la pensano allo stesso modo, no? E il porcellum con le liste bloccate sicuramente non ci aiuta a scegliere magari all'interno di una vasta coalizione un candidato che magari possa essere più vicino alle nostre idee piuttosto che altri. Certamente, certamente, in fatto di eutanasia, di testamento biologico è stato detto e ribadito da quasi tutti i leader, insomma, che c'è libertà di coscienza, loro accordano libertà di coscienza a quanti verranno eletti in Parlamento. Una domanda, sempre siamo nell'ambito delle provocazioni. Recentemente, alla fine della settimana scorsa, un esponente importante della Chiesa ha detto che anche il lavoro, che anche il tema della disoccupazione sono per la Chiesa dei valori eticamente sensibili, e per cui forse non esistono dei valori sensibili di serie A e di serie B. La Chiesa, anche la dottrina sociale della Chiesa, i suoi insegnamenti possono essere considerati all'interno della sfera dei valori eticamente sensibili e dei valori rinunciabili? Direi, quando si parla di giustizia sociale, di salvaguardia dell'ambiente, direi proprio di sì. Io temo che su questi chiamiamoli nodi cruciali e sensibili vi è un ampio consenso e accordo. Allora lì, da un punto di vista mediatico, quando la Chiesa parla fa meno notizia, fa più notizia sugli altri temi, no? Parlavamo della custodia della vita, della famiglia, perché lì evidentemente non vi è un'ampia convergenza, ma oserei dire sì. Io ricordo un passaggio, ecco, di padre Alex Zanotelli, il quale diceva io sono obbediente alla Chiesa, sicuramente riconosco che c'è una sacralità del matrimonio che va preservata, però al contempo c'è anche una sacralità della giustizia sociale, della ridistribuzione delle ricchezze, anche questo può diventare motivo di, come dire, di merito o anche demerito per un cristiano. Io la ringrazio per queste sue condivisioni e adesso spetta ai cristiani, con il loro principio di responsabilità del bene comune, compiere le proprie scelte in maniera assolutamente responsabile. Grazie per essere stato con noi, Don Cristiano. Grazie a voi, è stato un piacere e buon cammino a tutti. Noi carissimi ascoltatori ci troveremo nuovamente la settimana prossima sulle frequenze di Blu Radio Veneto con il professor Saonara, una riflessione su astensione e voto diritto o dovere. Intanto potete riascoltare queste e le nostre altre puntate sul sito di Blu Radio Veneto grazie al nostro podcast, potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone un saluto, alla prossima. Avete ascoltato Il bene di tutti, parliamone, rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.